Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Possedere dati sensibili o riservati significa avere un potere e i fratelli Occhionero lo sapevano bene. Il GIP di Roma lo scrive nell'ordinanza con cui ne dispone l'arresto. I due acquisivano informazioni per avvantaggiarsi nel mondo della politica e dell'alta finanza. Lo facevano con un virus elettronico autoinstallante, iPyramid, che lo stesso Giulio Occhionero era in grado di sviluppare. Controllavano così in remoto, cioè da lontano, i PC prescelti, riuscendo a registrare ogni apertura e chiusura di file, ogni parola digitata sulla tastiera, ogni contatto. I dati così rubati finivano sui server con sede in USA e ogni account violato era catalogato in categorie 122 finora scoperte dalla polizia postale. Bros, per esempio, oltre 500 indirizzi di posta elettronica di più di 300 persone per gli inquirenti massoni. Oppure Pobu, Political Business, quasi 700 account riferibili a esponenti politici, appunto, e istituzionali. È qui che figurano i nomi di Draghi, Saccomanni, Monti e soprattutto di Matteo Renzi. L'account in possesso degli spioni era quello... Beh, una storia fantastica. Se non ci fosse un serio pericolo per la sicurezza dello Stato, come qualcuno ci sta facendo capire, ci sono tutti gli elementi per una meravigliosa lettura romanzesca del nostro paese, la conferma di tante paure, di tanti timori, di tanti sussurri di corridoio, di tante storie di complotti. C'è di tutto, cominciando dal nome del software malevolo che spiava tutte queste persone, iPyramid, la piramide con l'occhio, che è uno dei simboli più segreti e più calcati da tutti i complottisti, il simbolo degli illuminati. La piramide con l'occhio sta nelle banconote del dollaro, ci sono racconti dietro che non mi basterebbe un mese per dirveli tutti. I fratelli Occhionero, già un nome che sembra quasi uno pseudonimo, sembra una sorta di nome di battaglia. I fratelli Occhionero che spiavano una rosa di personaggi incredibile, un mix che non si capisce cosa ci sia di nesso fra lo spiare Renzi, spiare Monti, spiare Michela Brambilla, che si occupa di cagnolini e di gatti abbandonati. Qual era il problema? Daniele Capezzone e Ignazio La Russa non sono politici in questo momento centrali, evidentemente, con una logica che noi abbiamo messo in luce parlando del caso Snowden qualche settimana fa. Evidentemente il grande archivio crea dei vantaggi a qualcuno. Beh, naturalmente, come tutte le vicende italiane legate al mistero, legate ai servizi deviati, legate alle associazioni segrete, legate ai personaggi di cui si sa improvvisamente l'esistenza e quando arrivano all'onore delle cronache, ma poi si capisce che hanno le mani in pasta nei luoghi più incredibili del potere italiano. Beh, tutto questo logicamente merita un approfondimento intanto razionale, logico. Ci sono gli inquirenti che stanno lavorando, i giornali ne parleranno con grande sensazionalismo ancora per qualche giorno. Cerchiamo di capire esattamente quello che possiamo capire di certo alle basi di questa fantastica storia. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Una complessa indagine durata circa 8 mesi su segnalazione del responsabile della sicurezza di una delle infrastrutture critiche convenzionate con noi, che aveva ricevuto una mail da uno studio legale col quale non aveva avuto alcun rapporto in precedenza. È un professionista della sicurezza, quindi si allarma. Scopriamo che si tratta di una mail falsa, una mail utilizzata attraverso un nodo Tor. All'interno vi era un malware, quindi un codice malevolo, e da lì, attraverso un'attività di reverse engineering, quindi di retroingegnerizzazione, troviamo che cosa? Un pezzo di software, per dirla in termine volgare, acquistato in America. Chi l'ha acquistato? Giulio Occhionero, uno dei due arrestati di oggi. A quel punto inizia una lunga e complessa attività investigativa, fatta sia di attività tradizionali che di attività molto tecniche, sofisticate sotto il profilo tecnologico. Viene fuori un centro di dossieraggio che è andato avanti indisturbato per circa 6-7 anni. Parliamo di diverse centinaia di terabyte, quindi, tanto per intenderci, se dovesse stampare i fogli non basterebbero stanze e stanze. Beh, per farvi capire l'entità e lo spessore di questa vicenda, che ho aggredito con un tono leggero, perché sembra la conferma di tutte i sospetti e di tutte le allusioni che da settimane, mesi, anni circolano soprattutto in rete, a parlare Roberto Di Legami, direttore del servizio della Polizia Postale, che è stato ieri rimosso dal capo della Polizia, Franco Gabrielli. Quindi è una vicenda molto seria. Il funzionario della Polizia Postale, ex capo della Polizia Postale, ha spiegato per sommi capi quello che sembra essere accaduto, quello che oggi avete raccontato e spiegato in tutti i giornali. Non era lui soprattutto Giulio Occhionero, non era un ragazzino smanettone, era un ingegnere, una persona che conosciamo molto bene l'informatica, una persona che aveva progettato algoritmi per lavorare nel campo dei derivati, la finanza più fantomatica e creativa che possa esistere, quindi conosceva il suo mestiere, una persona molto ben introdotta, anche la sorella, quello si legge nei giornali, una persona di respiro internazionale, vivevano nella parte opulenta della città romana, Roma Nord, la Roma che conta, facevano una vita apparentemente del tutto normale. A casa gli hanno trovato un'attrezzatura capace di far rabbrividire veramente le stanze più alte del potere. Addirittura, quello che leggo alle cronache, la signora Occhionero, quando è entrata la polizia, ha immediatamente fatto distrutto con le sue mani una SIM e ha cancellato, entrando con le password sbagliate, l'accesso al suo computer. Però naturalmente sono stratagemmi che servono a poco. Beh, cerchiamo di capire un po' innanzitutto dal punto di vista tecnico cosa può essere successo. Ingegner Paolo Lezzi, buongiorno. Buongiorno. Paolo Lezzi, l'abbiamo sentito spesso, è un esperto in queste questioni di tipo informatico e si occupa di sicurezza. È fondatore e amministratore delegato di In The Cyber, che è l'azienda italo-svizzera che opera nella cyber defense e nell'intelligence. Quindi la sua azienda si occupa di arginare il rischio che qualcuno possa fare quello che hanno fatto i fratelli Occhionero. Ecco, lei è riuscito a capire, perlomeno dagli elementi che abbiamo tutti noi leggendo i giornali, ascoltando i telegiornali, come hanno agito, qual è il livello di raffinatezza e di potere di fuoco di questo gruppo di spionaggio, chiamiamolo così, perché questo era? Sì, assolutamente un gruppo di spionaggio, poi chissà se erano i terminali o i protagonisti diretti. Quello che è accaduto sostanzialmente va a massimi livelli. Loro hanno comprato questo malware, quindi questo software malevolo, e l'hanno poi utilizzato per mandare delle email ai personaggi che hanno man mano selezionato. Bisognerà vedere, vista la quantità, se selezionati in maniera puntuale o massiva, a strascico, perché l'idea sembra quasi una pesca a strascico, non c'è un nesso, un filo diretto, sembra quasi si prende un po' di tutto, poi si vede quello che succede. Esatto, esattamente, cioè quello che loro sostanzialmente hanno fatto, hanno mandato delle email, hanno fatto un'attività che si possa definire di phishing, di spear phishing, quindi di massive, visto che sono 18.000 gli account che sembra abbiano toccato. Però, ripeto, sono informazioni ancora da approfondire. No, con quello che abbiamo a disposizione. Posso fare una domanda, però, prima di tutto, ingegner Lezzi? È una mia curiosità. Questo malware che lei ha citato, iPyramid, esiste, già si chiamava così, o è legato in qualche maniera alla parte più fosca e più misteriosa, all'aspetto massonico? Perché la piramide con l'occhio è un simbolo massonico. Già si chiamava così il programma, oppure è qualcosa che è legato a questa stretta vicenda? No, diciamo, si chiamava così. Allora è chiaro che tutti questi aspetti e questi tool che si possono recuperare in questi mondi sommersi, dove insieme a questi, dentro le reti Tor, nei cosiddetti hidden service, che già dal nome si fa capire, quindi servizi nascosti, sono servizi che non sono indicizzabili con Google, non si riescono a trovare, ci si arriva per conoscenze dirette del servizio, c'è sostanzialmente il traffico della pattumiera del mondo. Sì, però fare questa operazione, mi scusi, ingegner Lezzi, sì. non è che occorre essere ingegnere o avere particolari conoscenze. Lo smanettone cattivo che va lì, prende, ramazza, usa e fa. C'è qualcosa in più? Lei intravede un'attività con uno specifico particolare, organizzato, industrializzato, rispetto a aver raccattato nella parte oscura del web un programmino, un tool, e averlo mandato via mail alle persone che volevano spiare? No, perché vede, quando io mando la mail per convincere lei o un'altra delle personalità di cui abbiamo sentito parlare a leggere una mail e aprirla e aprire anche gli allegati, non è che sono tutte persone disaccorte, devo convincerla in maniera puntuale, devo o aver già attaccato qualcuno che io conosco, per cui mi fido di quella mail, oppure devo costruirla in maniera tale che lei si possa fidare. Cioè, Monsignor Ravasi, è uno come fa a convincere Monsignor Ravasi a aprire una mail dove c'è il software dentro? È la stessa maniera usare un sistema che convince, non so, Fassino, dico a caso, non so, oppure Mario Monti apre la sua mail, vede una mail con un messaggio, aprimi questo allegato, non lo so, c'è la lettera di un amico. Se fosse stata, diciamo, una mail di un altro professore, di un altro collega italiano o estero dell'università Bocconi, per dire, o di altre entità, è chiaro che lui potrebbe darla aperta. Se il presidente della Banca Italiana o un funzionario, un dirigente della Banca d'Italia scrive a Draghi, può darsi che Draghi apra quella mail. Quindi è una cosa sicuramente studiata a passi successivi. Però scusi Lezzi, qui ci vuole però un'azione di intelligence preventiva, ci vuole qualcuno che si procuri l'accesso alle caselle di mail di tutti questi personaggi, capisca le persone in cui sono in stretto contatto, quasi una talpa interna, qualcuno che fornisce questi dati, o è una mia una supposizione? No, nel momento in cui io ho il controllo del suo PC, io a quel punto, questo siamo a 7 anni, quindi ho avuto tutto il tempo, se io entro nel PC del dottor Nicoletti e vado nella sua casella di posta e vedo le persone con cui lui si iscrive, è chiaro che non stiamo parlando di un poveretto, cioè questo era un personaggio che lavorava nel mondo dell'alta finanza, quindi aveva una cognizione ben precisa di quello che era l'infrastruttura politica, economica, eccetera, del paese. Sarà studiato ulteriormente e partendo dai rami più bassi uno può costruire una salita verso i livelli più alti per contatti successivi fino ad arrivare ai target degli identificati. Lei che idea si è fatta? Allora, questa operazione, che mi sembra massiccia, dei numeri piuttosto massiccia, è anche singolarmente rimasta nascosta per 7 anni, cioè non a caso il capo della polizia postale salta all'immediato, dice come in 7 anni non si è mai accorti che al centro di Roma c'erano delle persone che alla luce del sole, conosciute via dicendo, facessero un'operazione di questo spessore. Quale potrebbe essere la finalità? Visto che è pesca a strascico, come abbiamo insieme visto che è stratificata la classe politica degli ultimi 7 anni, oggi intercettare la Russia può avere poco senso, magari quando era ministro della difesa aveva più senso, aveva maggior valore. Tutto questo può essere finalizzato a una raccolta dati che rappresenta un valore, quindi rappresenta un valore. Io ho una banca dati appetibile, se volete la metto sul mercato, c'è un mercato clandestino più o meno che compra dati perché sono interessanti, o per avere delle azioni precisa verso le persone, so tutti i fatti tuoi, quindi ho un potere su di te, un domani potrei in qualche maniera ricattarti, averti in mano, possederti. Di tutto questo quadro, facendo delle ipotesi, vista la mole dell'operazione e gli strumenti usati, lei che ipotesi si è fatta? Ci sono una serie di ipotesi che posso fare, ma questi lavoravano nel mondo della finanza, può darsi che l'hanno fatto delle serviva per fare aggiotaggio, quindi per fare delle serie trading rispetto condizionare il mercato della finanza, quindi erano soldi alla fine. Questo, diciamo, però non lo so, questo sicuramente non va detto così. L'altra cosa è che possa essere collegato con qualcun altro, quindi governi, entità, criminalità internazionale. Allora, i governi, prendo sporcarsi le mani, molte volte usano diciamo, l'outsourcing, cioè prendono persone tipo i fratelli Occhio Nero e gli fanno fare lo sporco lavoro che non possono fare loro. Esatto, delinquenti as a service. Scusa, si chiamano così, si chiamano. On demand, sì, on demand. No, perché è uscito anche il nome della CIA, delle cose strane, non si capisce bene a un certo punto. Perché a quanto pare questi comunque avevano dei rapporti con le entità governative statunitensi, non riesco a capire perché e per come, quindi potrebbe anche essere che ci sia qualcosa del genere. L'altra, che però la vede più probabile, è che se ne sono dei maniaci. Dubito, perché per fare una cosa del genere... mi sembra un po' strana come cosa, che possa essere solo una questione maniacale. Beh, maniacale, cioè, un intento criminale c'è sicuramente. Ci sono manie, costa molto meno fatica e molto meno impegno e più appunto, soddisfacenti. Dico, mi sembra che è stata fatta da qualcuno anche questa ipotesi. Questo era il loro lavoro, mi sembra di aver capito, cioè fondamentalmente era il loro. Fermiamoci solo un istante con l'ingegner Lezzi. Intanto ricordo il numero di telefono 800 24 0024. Dopo questo primo chiarimento tecnico, mi piacerebbe sapere quello che è il polso della popolazione, come l'avete vista voi questa vicenda, che ipotesi vi siete fatto aprendo i giornali, ascoltando i telegiornali, che tipo di idea vi è passata in testa. Mi piace, mi interessa il vostro parere e la vostra impressione a caldo, per me è molto importante. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog, cronache meridiane. Che cos'è la verità in Italia? È un'idea, una corrente di partito, un'opinione, una corrente elettrica, una corrente d'aria. Ma c'è qualcuno dall'altra parte? Ma sto interrompendo qualche programma? Ma c'è qualcuno che mi vede? Porca miseria, noi, cavaliere della Guardia d'Oro, abbiamo fatto un golpe, abbiamo rivoltato tutto quanto. Ci fosse uno dall'altra parte che dice... Ehi, ma che sta succedendo? Oppure soltanto per dirti vaffanculo, ma una reazione! Ma porca miseria! Ma voi lo sapete che noi lavoriamo dalla mattina alla sera per occupare i posti, per fare la cosa, per fare l'attentato e chiama chi lo pensate che è facile e c'è video che fa. E non mi interrompe se mi interrompe continuamente, e questa è fatica, e questa è passione, ma io faccio colpe, io mando l'Italia a gambe per aria, ma vorrei dall'altra parte qualcuno che dicesse stanno attentando alla Costituzione, ma non è neanche più semplice. Uè, ma che sta succedendo veramente? No, tutti tranquilli, è normale. Hanno colpo oggi, abbassate le tasse, ma voi avete rispetto per chi lavora, ma lo capite? Come sempre nella genialità delle letture satiriche della realtà, in questo caso è Corrado Guzzanti, esistono dei sensi profondi di profezia, questo ve lo ricordate, il massone incappucciato, uno dei suoi personaggi più felici nel suo essere totalmente surreale. Che si arrabbia del fatto, con tutto quello che ci diamo da fare per muoverci, poteri occulti, prendiamo in mano il paese, facciamo il golpe. La gente non gliene importa niente, dice abbassiamo le tasse. Beh, c'è molto di segnale della vicenda che stiamo vivendo. 800 24 0024, ho domandato agli ascoltatori delle loro impressioni su quella che è il fatto del giorno, una rete spionistica che esportava i dati soprattutto degli spiati italiani verso gli Stati Uniti, sta collaborando l'FBI per farli rientrare. I dati di una serie enorme di personaggi della politica attuale, della politica passata, della politica trapassata, cardinali, vescovi, di tutto c'era dentro. Il fine non si sa. Con il nostro ospite che abbiamo sentito poco fa, che ancora ci ascolta, che è l'ingegner Paolo Lezzi della Indersiber, l'azienda italo-svizzera che opera nella cyber defense, nell'intelligence, dice ma potrebbe essere varie le ipotesi. Una è l'ipotesi di fare profitto, sono dati comunque possono muovere, dare informazioni per muovere in maniera illecita il mercato finanziario. Possono essere dati, comunque hanno un loro mercato, e possono essere anche un sistema di controllo per conto terzi. Mi viene commissionato, spia tutte queste persone, dimmi cosa fanno, cosa dicono, poi tu non ti preoccupare, so io cosa fare dei loro dati. Sentiamo un attimo Valentino. Valentino, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Volevo intervenire perché da stamattina seguo tutta questa faccenda che sembra catapultata improvvisamente da vari fonti e cosa. Io mi interesso, ho visto nascere internet, ho visto nascere le mail, sono utente di mail, sono stato vittima di una cosa che non si è sentita nominare, che si chiamava spoofing, cioè si sono appropriati del mio indirizzo email. A parte questo, quello che trovo strano è che nessun esperto, che è stato intervistato in svariate trasmissioni stamattina, abbia nominato qual è il sistema operativo che tutto sommato è a capo di tutto questo abusivismo. Perché avviene questo banco? Cosa vuol dire il sistema operativo? Cioè, su quale sistema operativo loro entravano? Ma vari, perché mi sembra che a Renzi li sono entrati nell'account del Mac. No. Alla base di qualsiasi PC, tablet o smartphone c'è un sistema operativo. Io non voglio fare nomi perché... Vabbè, o Windows o Apple, cioè... Non c'è solo quello, ce ne sono altri. Sì, ma non credo che Monti usasse sistemi open source, sinceramente, avrà il computer che gli hanno dato alla Camera. No, io dico solo che certi sistemi operativi sono di per sé fragili, perché hanno un firewall che non è adeguatamente... Sì, è chiaro che i computer aziendali c'entra anche un bambino, è logico, a meno che non hanno una protezione aziendale. Ingegner Paolo Lezzi, il signore che dice, non abbiamo mai detto quale sistema operativo usavano, mi sembra che entrassero in tutti i sistemi operativi, qua va oltre il sistema operativo, sinceramente, secondo me. Il problema è molto oltre il sistema operativo, certo ci sono... Tutti i sistemi operativi possono essere più o meno deboli a seconda di come vengono configurate le macchine, questo è un dato. Nel caso poi specifico del Premier, sono entrati sul suo account di cloud, quindi è una cosa ancora... Qualcuno ha scritto stamattina che sono entrati nel suo telefonino, non sono entrati nel telefonino, sono entrati nell'account di cloud, quindi da lì poi... Cioè, è chiaro che questa è una problematica di sicurezza nazionale, è il momento in cui si deve veramente, ne abbiamo parlato tanto, soprattutto anche nelle conferenze che noi organizziamo sulla cyber warfare, è chiaro che qui stiamo parlando di aspetti che coinvolgono le istituzioni. Ora, le istituzioni italiane devono fare realmente un passo ulteriore, nel senso che gli account email o come pure tutti i device che vengono utilizzati da persone che hanno un ruolo istituzionale devono essere posti sotto verifiche periodiche a frequenza molto, molto stretta per verificare che non c'è, perché non è possibile andare avanti così tanti anni. Ecco, il problema in generale vuol dire probabilmente non aver cambiato neanche continuamente le password ogni mese. È diverso, non è tanto fare un upgrade continuo dell'hardware. Renzi, quando va alle conferenze, aveva un MacBook Air di ultima generazione, quindi non mi sembra che andasse in giro con il macinino. È che in realtà serve un sistema di protezione e sicurezza. Come hanno alle spalle 10 persone armate per la loro sicurezza fisica, dovrebbero pensare che anche i loro strumenti informatici dovrebbero avere un'altrettanta potente protezione. È questo che vuole dire. Esatto, cioè sono anni che nella NATO è stato riconosciuto come campo di battaglia, quindi battlefield, la realtà cyber. Ora, noi non possiamo non fare questo passaggio. Cioè, l'aspetto cyber diventerà sempre di più lo strumento per fare le guerre, che sia l'intercettazione, l'intrusione dentro un singolo account, che siano 18.000, che siano quello di un intero Stato. Cioè io tramite questo settore farò molto di più che con carro armato, che con la bomba, eccetera. Noi dobbiamo solo ringraziare Dio che certo tipo di terrorismo per ora non ha ancora coinvolto pesantemente questo campo di battaglia. Anche perché qua si parla di entrare nei sistemi che controllano il traffico degli aeroporti, faccio un esempio, che può creare qualche piccolo problema. Allora sentiamo un attimo l'ascoltatore Luca, poi abbiamo un altro personaggio che è importante, di cui è importante ascoltare il parere e l'informazione. Luca, velocemente. Sì, buongiorno Nicoletti. Secondo me siete a scomodare troppe, diciamo così, teorie fantasiose o risalenti ai tempi di Salomone, ai tempi della massoneria. Però, secondo me, se queste persone hanno immagazzinato questa mole di dati da diverse persone di diversi ambienti, dalla finanza, dalla politica, agli ambienti religiosi, per così tanto tempo, il sospetto ci sia comunque di fondo una voglia o comunque una commissione su qualcuno di controllo, ma io non mi riferisco solo a livello finanziario, a livello di dover vendere dati, ma secondo me proprio a livello generale, globale, perché comunque se io controllo una persona per un lungo tempo che ha delle influenze, diciamo così, in diversi ambienti, posso veramente che controllare la storia o gli avvenimenti di certe cose o renderli fruibili da qualcuno che li possa modificare. È il caso Snowden di cui abbiamo parlato noi qualche tempo fa, che alla fine si capiva questo apparato parallelo, ufficiale, governativo, in realtà controllava tutto, perché alla fine se tu entri nell'idea che partendo dalla sicurezza di sapere più cose possibili, quando hai lo strumento per controllare tutto, controlli tutto, e quando puoi interfacciare i dati puoi fare operazioni di dossieraggio, cioè mettere insieme tutti i dati sensibili con cui puoi fare un uso, è chiaro, uno strumento potentissimo. Però in questo momento vorrei un secondo solo uscire dall'aspetto informatico di questa vicenda, entrare in un altro aspetto che è altrettanto importante e dà altrettanto tinte fantomatiche a tutta questa vicenda. Tutti hanno sottolineato, perché non è secondario, il fatto che Occhio Nero fosse massone, iscritto alla massoneria, loggia Paolo Ungari, Nicola Ricciotti, Pensiero Azione di Roma, con una delle logge del Grande Oriente d'Italia. Il Grande Oriente d'Italia ha subito preso le distanze. Stefano Bisi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Stefano Bisi, giornalista, scrittore, gran maestro del Grande Oriente d'Italia. È stata una bella scossa questa notizia, questa vicenda, diciamo, per l'immagine, l'integrità, il sentire del Grande Oriente d'Italia? Ma non credo che se nella Chiesa c'è un prete condannato per pedofilia si condanna tutta la Chiesa cattolica, che è un'istituzione importante e significativa. E vorrei anche che non si dimenticasse una cosa, che io e altri 300 fratelli del Grande Oriente d'Italia sarebbero stati spiati, io ho saputo. Questo ieri, è l'aspetto mattina, più singolare. Non lo so. Quindi una serpe in seno, sembra quasi. Succede in tutte le famiglie che possa esserci un appartenente alla propria famiglia che si comporta come non si deve comportare. Ricordo ancora appunto che il Grande Oriente d'Italia è parte lesa in questa vicenda, se le indagini che sono cominciate continueranno su questa linea. Ecco, vorrei dirlo con forza, perché sono stato spiato anch'io, se è vero quello che ho letto. Lei si è domandato perché la spiassero? Si è mai fatto questa domanda in queste ore? No, non me la sono fatta, sono sorpreso, perché non credevo di essere spiato. In ogni caso non ho nulla, diciamo, da nascondere nella mia attività, quindi non capisco. Vorrei chiederlo a chi mi ha spiato perché mi spiava, ecco, vorrei chiederlo a lui, sono curioso. Che rapporti aveva lei con Occhio Nero? Vi conoscevate? Nel Grande Oriente d'Italia ci sono 23.000 fratelli e Occhio Nero era maestro venerabile di una loggia di Roma, la Ungari Ricciotti. Io non credo, non lo so se ci ho parlato in questi anni, perché 23.000 fratelli sono tanti. Io sono stato eletto 2 anni e mezzo fa, quindi non è. Ho provato a guardare ieri, appena ho saputo questa notizia, a guardare sulla rubrica del mio telefonino se c'era il nome, ad esempio, no? Magari potevo averlo chiamato, o aver chiamato me in quanto era maestro venerabile, però non c'è. Però nella rubrica di Occhio Nero probabilmente lei ci sta, perché se la intercettava. Sì, penso di sì che ci sia stato, ma la cosa preoccupante, devo dire, mi dispiace per me e anche per, pare siano 300 i fratelli che lui avrebbe spiato, mi dispiace perché sono preoccupato, anzi, perché avrebbe tentato di assaltare, di attaccare, si dice così, credo in gergo, i PC di personaggi e di personalità pubbliche importanti del nostro paese e non solo del nostro paese. Ecco, è questo. Ma in quanto massoni, diciamo, intercettandoli in quanto massoni, in quanto personaggi pubblici e anche massoni? Cioè, i personaggi che intercettava erano massoni, secondo sì. lei? No, lo chiedo, non lo so. Ma non mi risulta. Quindi è, diciamo, è una branca laterale l'intercettazione, occuparsi della politica, della finanza, delle persone in vista e anche della massoneria, perché in fondo poteva anche questo. Ma lei si è chiesto che utilità potesse avere intercettare 300 massoni che facevano vite normalissime? Se non sono personaggi di spicco, erano persone qualsiasi. Me lo sto chiedendo, infatti, me lo chiedo anche ora insieme a lei. Non capisco perché. Ho letto di giochi di potere, no, interni al Grande Oriente d'Italia. Guardi, e lo dico agli ascoltatori, che fare il maestro venerabile, perché Occhionero era in tempi passati maestro venerabile di una loggia di Roma. In Italia ci sono 850 logge appartenenti al Grande Oriente d'Italia. Ma come si fa a diventare maestro venerabile? Cioè bisogna avere dei meriti per farlo. Viene eletto dai fratelli di quella loggia e dopo... Che gli riconoscono però dei meriti per fare il maestro, delle qualità, penso, no? Sì, come in tutte le associazioni che sono democratiche, gli appartenenti eleggono colui che ritengono meritevole di fare il maestro. Ma lei aprirà una sorta di indagine interna, non so se funziona così, su questa loggia Paolo Ungari, visto che hanno eletto Occhineri. Poteva esserci qualche legame, qualcosa, non la fa pensare questo, che questa loggia eleggono una persona che spia gli altri massoni. Ma infatti ieri, appena ho saputo la notizia, ho provveduto alla sospensione di Occhionero e sicuramente parlerò in queste ore, nelle prossime ore, con i fratelli che appartengono a quella loggia per capire che tipo così di fratello era Occhionero, come si comportava, per capire meglio. Questo lo faccio. Ieri, quando comunque ho saputo questa notizia, mi ha chiamato un fratello per avvertirmi, perché girava su internet e cominciava a girare questa notizia. Io mi stavo occupando del sostegno del progetto che il Grande Oriente d'Italia sta facendo per l'impianto di illuminazione del campo sportivo di Norcia, perché così ci ha chiesto la società sportiva. Le pensi che altri pensieri è stata disturbata questa. Ci fermiamo soltanto un secondo, che dobbiamo dare un'interruzione. Resti con noi però, Stefano Bisio, qualche altra domanda interessante a cui lei ci può dare qualche chiarimento. Fra un istante. Melog, cronache meridiane. Enrico, buongiorno, velocemente. Buongiorno, ma io sono rimasto un po' stupito da questa vicenda, sono sincero, perché siccome si tratta di hacker fondamentalmente, poi noi gli diamo questa coloritura della libera muratoria, che secondo me è una sono due fatti distinti. Uno, certo, può essere massone e fa qualsiasi mestiere al mondo. Certo. No, questa è la massone di mestiere Ma sì, però quello che io mi sono stupito di questo. Io li considero dei polli questi signori, perché fondamentalmente vanno a spiare le email del Presidente del Consiglio, ma non possono pensare che anche queste strutture istituzionali hanno delle contromisure per arrivare a loro. Cioè, questa mi sembra la cosa più semplice che uno si domanda. Cioè, sono andati a spiare il capo del governo e non pensano che possono essere insomma, credo che anche la Presidenza del Consiglio fermo un attimo. Ingegner Paolo Lezzi, rispondiamo alla domanda del suo ascoltatore. Dice: in realtà, se tu vai a mettere le mani nel cloud del Presidente del Consiglio, devi essere molto sventato a immaginare che da qualche parte, magari per sbaglio, magari qualcuno non se ne possa accorgere. Di fatto non se ne sono accorti finché il funzionario dell'ENAC non ha avuto un sospetto su una mail che ha ricevuto. Questi sono i fatti. Cioè, se non ci fosse stato quel funzionario che a un certo punto dice: ma come mai mi arriva sta mail da uno stranissimo posto? Esatto. Andavano avanti altri 7 anni, questa è la soluzione. Quindi è vero che, cioè, non è che sono stati mal accorti, è che purtroppo va fatto un giro di vite, un ulteriore rafforzamento delle misure difensive. Cioè, significa che ai vertici una tantum, ma bisogna tenere sotto monitoraggio continuo per verificare se ci sono degli spostamenti strani di informazioni, se vanno verso certi server strani che non sono identificati. E in più, siccome alcune persone, come anche il Premier, ha usato, cioè non sono andati nella mail della Presidenza del Consiglio, ma nella sua mail personale. Quindi diciamo che bisognerà arrivare a un'accortezza ancora maggiore, perché purtroppo il mondo è più cattivo di quello che si pensi al giorno d'oggi. Usare sistemi che sono... No, quello che sta dicendo lei però in generalezza non è secondario. Ci stiamo rendendo conto che in realtà abbiamo sottovalutato un pericolo, nel senso che gli uomini che rappresentano le istituzioni giustamente li vediamo ben blindati sempre da persone che ne curino la salvaguardia fisica, e su quello probabilmente nessuno riuscirà mai ad arrivare fisicamente a toccarli, a meno che uno non gli tira la statuetta del Colosseo a distanza, come è successo, però sono salvaguardati. Però non mi sembra di aver capito, e lei me lo sta confermando, che la salvaguardia della parte sensibile della loro personalità non è altrettanto forte e potente. Poi uno può entrare nel cloud del Presidente del Consiglio senza che nessuno se ne accorga. Ci dovrebbe essere altrettante guardie invisibili che gli controllano che nessuno vada lì, perché è molto più importante. È questo che sto dicendo, bisogna spostare budget della difesa su questo tipo di attività, perché se sono considerati target fisici, sono target anche cyber. Ancora, ne abbiamo parlato tanto, facciamo convegni, però finché non arrivano i fratelli Occhio Nero che fanno vedere che ci può entrare chiunque, anche loro, qualcuno dice sono dei dilettanti, ma tanto dilettanti non direi, a lei cosa le sembra? Non mi sembrano proprio sprovveduti. Non sono sprovveduti e diciamo che recuperare le credenziali di un account di cloud non è così difficile, cioè se uno ci si impegna lo può fare. Quindi bisogna, quelli che sono le personalità target vanno difese in maniera più seria ed è un'attività di controllo continuativo, cioè la difesa è costante, deve essere sotto monitoraggio, non può essere una tantum o comprato il cosiddetto firewall, cosa si può dire. Si vede oggi nei giornali con cose ridicole, comprate il firewall, comprate gli antivirus, aggiornate gli antivirus, qua mi sembra che è un po' oltre. Non serve a niente per questo tipo di attacchi. Mi sembra che è un po' oltre, aggiornate spesso l'antivirus, sì. Non è. L'antivirus è una cosa utile, ma non serve per questo tipo di attacchi. Cioè bisogna assumere un poliziotto informatico se tu hai paura che i tuoi dati possano essere appetibili, però... Non è manco detto, perché Stefano Bisi, ricordo, maestro del Grande Oriente d'Italia, adesso anche voi dovreste cominciare a pensare a qualcosa del genere per il vostro archivio informatico, visto che in qualche maniera è stato violato e qualcuno è interessato a metterci le mani. Si è posto lei questa domanda? Sì, ce la siamo posta da ieri proprio per difendere la privacy dei fratelli, ce la siamo posta. Però mi pare se si riesce a violare la posta del Presidente del Consiglio, del Presidente della BCE e così via, insomma sarà difficile per noi poter sostenere gli sforzi per fare... Anche perché, diciamo, necessarie. Nella lettura storica un po' romantica, Lo dico da profano, della massoneria c'è sempre questa sorta di alone di mistero, di segreto, finché tutto però rimaneva nei rituali, nelle parole, negli incontri, nei verbali riservati fra fratelli, va bene, ma siccome oggi tutto penso si sposta su un piano informatico, voi dei vostri scritti avrete normalmente i tabulati, perché se si scrivono pagheranno una quota, si scrivono una loggia, è un'organizzazione tranquilla, normale e non più segreta, non è più segreta, quindi questo passo ulteriore secondo me sarà importante e necessario anche per voi. Sì, sarà importante, però guardi, noi siamo così segreti che se va sul nostro sito internet grandeoriente.it trova tutte le attività che facciamo, sono chiari gli scopi e quindi... E quindi uno si domanda perché mai Occhio Nero avrà voluto intercettarvi. Rimaniamo con questo dubbio, ci fermiamo, ci sentiamo la prossima volta.